Allora, benvenute, benvenuti quasi. Siamo di nuovo qui per la nostra stagione 2011-2012 con le nostre iniziative. Abbiamo iniziato lunedì e questa è stata una settimana abbastanza intensa perché ne abbiamo tre di iniziative nel corso di questa settimana. La prossima non sarà da meno e avete sulla sedia alcuni inviti, alcuni promemoria. La caratteristica delle iniziative della prossima settimana è che le faremo in un orario un po' diverso dal solito e soprattutto un paio di queste saranno fuori sede. Venerdì 30 avremo alle ore 18 presso l'Academy della Cassa dei Risparmio la presentazione del DVD di Giovanni Perez che riguarda la storia locale dal 45 al 48 e poi la sera invece verrà presentato il libro presso la sede dell'UPAD in via Firenze La legge della montagna, con Augusto Golin, Giovanni Accardo e il procuratore Rispoli. Ecco, io saluto tantissimo con grande affetto il professor De Marchi e il professor Galasso, che questa sera sono di nuovo con noi, il signor Patrizio Zindaco, che ha presa la sua voce sempre in maniera egregia per dare vita alle poesie e alle letture che facciamo in biblioteca, lo ringrazio. Iniziamo appunto questa serata con la poesia, un appuntamento in cui la biblioteca tiene molto, questi incontri con il professor De Marchi e il professor Galasso. Speriamo di riuscire a ripetere alcune occasioni ancora nell'arco della nostra attività fino a primavera, insomma quando poi la concluderemo in maggio, di poterci ritrovare per dare un po' una visione su quella che è la produzione poetica del nostro territorio. Cedo subito la parola al professor Galasso e vi invito a leggere i nostri libri che sono sempre esposti e comunque a disposizione di tutto il pubblico. Grazie. Ecco allora, forse ora sì. Tanto saluto anche a nome dell'Associazione Scrittori e della RACMAC il presidente Franco Latino. Penso arrivi, anche se probabilmente per un disguido è stato bloccato. Ecco, io volevo iniziare da un qualcosa di un pochino particolare per presentare questo bellissimo libro, e questo tengo a dirlo già a priori, dell'amico Silvano De Marchi. Tutti i libri di Silvano De Marchi sono da leggere, sia le poesie, sia i racconti, Franco, sia diciamo i saggi, naturalmente, che sono anche di estrema importanza. Iniziavo con una considerazione. Pietro Ferrua, storico della letteratura, scrive anche molto in francese, in portoghese, lo sa, in portoghese perché è stato in Brasile per anni, a parte in questa curiosa rivista numero di maggio di quest'anno, faceva la considerazione seguente che io riprendo ma amplio. Diceva: se guardiamo ai libri più letti nel mondo, allora il libro più letto nel mondo, lo sappiamo, lo sapete, è la Bibbia. E dice: è un libro che indubbiamente ha agito nella storia e sulla storia. C'è un secondo libro che è il più letto nel mondo, e qui vi stupirete un po', ma forse neanche tanto, è il libretto rosso delle citazioni di Mao Zedong, nuova edizione, non Mao Zedong, ma Mao Zedong. Sì. Ora, ecco, e perché naturalmente è un bacino enorme di utenti, i cinesi chiaramente leggono nelle loro lingue, in particolare in quella che è la più colta o accreditata, che è il mandarino. E dice Ferrua, un libro che quantomeno ha provato a agire sulla storia. Poi la terza lettura, qui il terzo libro, scusate, più letto nel mondo, e qui iniziano un po' le sorprese, I gialli di Agatha Christie. Personalmente non credo di aver letto uno per fare un po' di esercizio in inglese, ma il mio inglese è un po' scadente, devo ricorrere a una traduzione, e non mi appassiona, ma si vede che De Agustibus e non solo. Diceva Ferrua, e su questo credo, dice, per fortuna, dice, pur leggendo, diciamo, molto Agatha Christie, le persone non si appassionano al punto da arrivare ad uccidere, insomma, a programmare il delitto perfetto e queste cose. Ecco, io parto da quest'ultima considerazione. A parte la giusta considerazione che nel saggio citato c'è, per cui naturalmente la quantità non è la qualità, sicuramente diciamo, nel caso della Bibbia, pur, nella differenza, voi sapete, no? Storica e letteraria, di genere, di epoca, eccetera, tra i diversi libri che compongono ta Biblia, quindi la Bibbia, però ecco, il risultato, diciamo, il succo qualitativo, se vogliamo, è estremamente alto. Nel caso del libretto di Mao, a parte le considerazioni così storico-politiche, la qualità c'era, perché il presidente non era uno sciocco, però naturalmente sono citazioni, quindi anche qui vanno prese un po' con le pinze. Si scende, si precipita, direi, con Agatha Christie, di cui invece nessuno conosce. Io invece li ho letti con piacere e anche con una certa gioia a suo tempo. Esistono racconti e poesie di Natale di Agatha Christie, che a suo tempo proponemmo come Asa, Franco Latino e Silvano sicuramente si ricordano. Al di là di questo, cosa voglio dire? Se si leggesse più poesia e si leggesse un libro come Miraggi, non solo appunto come Miraggi, l'ho già detto all'inizio, no? Tutta la poesia e non solo di Silvano De Marchi è da leggere, si avrebbe un mondo probabilmente migliore, più gentile, più attento a certe problematiche, più, diciamo, focalizzato su temi importanti e su temi che coinvolgono, diciamo, in modo serio, in modo sensibile, l'essere umano. Purtroppo sappiamo che, diciamo, sappiamo litterare non dant panem, eccetera, però sappiamo anche che più complessivamente diciamo, la lettura di poesia, la lettura già è in forte calo, poi come scusa oggi si adduce la crisi, come se ci fosse un rapporto che già è problematico a livello filosofico, no? Il principio di causalità, ma diciamo, in questo caso è clamorosamente equivocato, no? Perché se c'è la crisi si legge di meno, è un assurdo. Ma purtroppo ecco, quello che viene penalizzato, e veramente bisogna dirlo con grande rincrescimento, è la poesia. È la poesia che invece indurrebbe a una riflessione. Voi sapete tutto quanto, almeno nell'ultimo lustro, ma io direi negli ultimi due lustri, si muove sul pensiero poetante, sulla capacità di ragionare, di pensare, approcciando, scusate il francesismo, la poesia di alto tenore, naturalmente, no? Come nel caso che abbiamo di fronte. Ecco, Miraggi, sul titolo è inutile che io mi soffermi, perché capiscono da loro, capiscono loro stessi cosa vuol dire. Il fatto che evidentemente diciamo, certe componenti, certe fasi della vita possano essere dei miraggi, pur semplici miraggi, specchietti per la allodole, ma ecco, naturalmente il poeta, in questo caso Silvano De Marchi, sa andare oltre, sa guardare oltre. Vedranno e sentiranno che il libro è diviso, è suddiviso in sezioni che diciamo si riferiscono alle condizioni, ai viaggi, alle stagioni diciamo dell'anno, alle stagioni della vita, e poi io non ecco, mi soffermerò un po' di più su questo. Diciamo sul tema della memoria, sull'altra dimensione e l'amato. Qui lascio un attimo di sospensione perché volevo tornarci in seguito. Quali considerazioni? Perché se si parla di poesia bisogna parlare di metrica. Diciamo, se si parla di poesia, dicevo, bisogna parlare di metrica, e il verso libero di Silvano De Marchi è un verso libero particolarmente interessante perché diciamo ha in sé un equilibrio metrico che è quello della metrica classica, e qui si vede il latinista e il grecista. Non nel senso che sarebbe chiaramente assurdo, perché non si può fare, è impossibile, ma diciamo il tenere quantomeno diciamo dalla lingua latina, che è più vicina evidentemente di quella greca all'italiano, di tenere l'equilibrio sillabico. Qual è diciamo l'architrave del suono poetico nella lingua italiana, in genere nelle lingue neolatine? È la vocale, sono le vocali, voi lo sapete, la consonante non diremo che fa da attaccapanni, da armadio, insomma, ecco. Però è un rispetto all'architrave, è un qualcosa che diciamo contribuisce a sorreggerla, è una struttura ausiliaria, non è appunto una struttura portante, no? Per rimanere in questa così, similitudine architettonica, urbanistica. E lo si vede, io direi, in tutte le poesie, in tutte le poesie della raccolta. E qui volevo così, magari fare un brevissimo detour, una piccola deviazione rispetto a quanto si è detto, che deviazione non è, perché in realtà appunto in esergo ad ogni sezione Silvano ha posto una citazione. Qui è: Lass ausruhen mich von Lust und Not, bis das ewige Morgen rot den stillen Wald durchfunkelt. È chiaro, no? Lascia riposare di piacere e necessità finché il sempiterno, la sempiterna aurora balugini o come traduce qui, sì, scintilli nel silenzioso bosco. L'ho letta perché è bellissimo, è von Eichendorff, perché c'è questo Morgen rot che è ancora scritto col TH. Oggi in tedesco si scrive Morgenrot o Not con la T e basta. La TH era il prolungamento, perché l'H è semivocalico, no? È un suono semivocalico, quindi tra il, evidentemente tra la consonante e la vocale. E ha fatto benissimo, come nelle altre citazioni, anche se per esempio Gael non arriva alla grandissima poesia romantica di von Eichendorff, però ecco, sono tutte citazioni veramente ad hoc, nessuna citazione in esergo è casuale, questo volevo anche sottolineare. Per darvi però un'idea più concreta di questo uso, diciamo, nel verso libero della, appunto della metrica quantitativa, iniziamo con Cuore d'Africa, che poi sentiranno leggere come il foglio, leggo così, insomma, non sono un attore. Tutte ho vissuto le esplosioni dell'istinto, il sobbalzo della notte all'inatteso riso della iena. Sottolineo naturalmente come prima certe componenti, in questo caso vocaliche, l'aspettazione trepida della gazzella al beveraggio. Ecco, attenzione, perché voi lo sapete, dopo l'equivoco che perdurava anche in storia della letteratura, che ci siamo trovati magari a dover abbordare a scuola con notevole noia, la distinzione in poesia tra diciamo forma e contenuto è un equivoco. Per dirla in forma sloganistica, in poesia tutto è produzione di senso, quindi non c'è la distinzione tra, ecco, potremmo parlare di stile, ma appunto parlare di una forma staccata da un contenuto, questo è un equivoco che risale evidentemente ad altri tempi, arriva al massimo al 1800. Noi sappiamo in questo caso sì, dalle diciamo interpretazioni, dalle teorie di poetica del Novecento, con tutti i loro equivoci, per carità, e anche tutti i loro limiti, però che evidentemente a fortiori, direi, in poesia è impossibile distinguere appunto tra forma e contenuto, perché evidentemente c'è al massimo un significante, c'è un significato e c'è un referente che è poi diciamo il contesto in cui la poesia si inserisce. Quindi ecco, questo era un esempio, ma tanti altri sono possibili. A Istanbul, davanti alla moschea blu, una giovane di pelle bruna faceva abluzioni, qui c'è un piccolo errore di stampa, diciamo, per purificarsi davanti all'Altissimo Allah, il Misericordioso. Ad Ankara, caldo afoso, mi comprai un paio di sandali per camminare leggero, e la sera all'Hotel Hilton, piscina coperta, sauna, massaggio da un giovane etiope dalle mani pesanti. Ecco, la poesia intelligentemente, giustamente, ha come titolo emblematico diario, però ecco, se vedono e se leggono con attenzione, è un diario, sono ricordi di diario, ma al tempo stesso, ecco, un altro atavico dilemma, una dicotomia atavica più in letteratura, più in prosa, diciamo, che in poesia, viene superata, cioè quella tra descrivere e invece esprimere, diciamo, no? Tra la descrizione e l'espressione, perché in poesia evidentemente la narrazione è altro, la narrazione si fa in altri termini. Ecco, un altro pregio del libro, per riprendere questa sì invece, una distinzione che deriva dal romanticismo, ma non solo in realtà, in tutto il romanticismo c'è. È una scelta quella di Silvano lirica. Cosa vuol dire? Non solo poesia, ma la lirica si riferisce alla poesia soggettiva. Quando invece si parla di epica, l'epos è la poesia corale. Ciò non toglie che ci siano momenti di coralità nel libro, però a partire dalla considerazione, io parlo di considerazione oltre che di pensiero poetante, che deriva dal soggetto. Quindi il poeta è veramente parte in causa, non si tira fuori e non c'è una, diciamo, falsa o fraintesa oggettività. Questo nel libro Miraggi, come io direi in tutta la produzione di Silvano De Marchi, non lo troviamo, ed è un punto di forza in realtà, perché molto spesso noi così troviamo anche dei tentativi di malintesa, per carità, in certi casi riesce anche molto bene, ma in genere sul diciamo della poesia sociale, politica, appunto con un afflato corale, eccetera, è da dubitare un po', perché molto spesso, diciamo, si tende a fare, come potremmo dire, no? In francese c'è un'espressione che è più così efficace, no? Faire semblant, si fa finta, ma non è proprio questo, diciamo, si dà un qualcosa che poi, ecco, invece qui la spontaneità da parte di un intellettuale, che il professor De Marchi è noto come studioso, come saggista, come teosofo, filosofo, ma al di là di questo c'è anche la capacità dell'immediatezza, no? Dell'entrare in medias res, poeticamente ben inteso, senza uno sforzo, senza, diciamo, e questo è di pochi, perché spesso noi troviamo, insomma, personalmente capita anche a chi vi parla, insomma, molto spesso si tende purtroppo a una poesia magari lambiccata, no? O oltremodo mediata, non immediata, no? La capacità appunto di andare direttamente appunto nelle cose, entrare in medias res, non è cosa che sia così da tutti e sempre fattibile, no? Quindi anche la creazione poetica evidentemente ha delle fasi. Dunque io ho citato dalla rassegna che si chiama Esotica, è quella, diciamo, dei viaggi, però ecco, attenzione, qui anche riprendo una dicotomia che è ancora oltremodo valida, da viaggiatore. Silvano è sempre stato un viaggiatore, mai un turista. Questo preme sottolinearlo. Non sono, per carità, un nemico a priori del turismo, ma molto spesso il turismo ha qualcosa di selvaggio, di volgare, no? Come si dice in romanesco? Cacciaroni, no? Da cacciaroni, no? Questa espressione credo che sia così particolarmente efficace. La seconda poesia che citavo, no, dunque, sì, l'esergo che citavo di von Eichendorff è per Paesaggi, segue naturalmente poi I giorni, e qui I giorni è un qualcosa che naturalmente ci riporta no, a Erga Kai Hemere, no, a Esiodo, ci riporta alla lezione pariniana, eccetera. Però ecco, lo svolgimento che si ha in Silvano De Marchi è assolutamente originalissimo. Cuore d'Africa. Tutte ho vissuto le esplosioni dell'istinto, il sobbalzo della notte all'inatteso riso della iena, l'aspettazione trepida della gazzella al beveraccio, poi lo schianto, l'insonne ronzio del coleottero gigante. Come tutto era prodigioso. Nere mute di bufali sulla collina Flava, l'euforia candida abbracciata al podocarpo e il mio capanno tra i banani. A sera ci risucchiava un tramonto verde e rutilante. Zambesi. I negri seminudi portavano cotone lungo il fiume, scendendo su canoe, e quando d'agosto la notte era un ampio brulicare di stelle, tra i sicomori i tuoi villaggi erano bianche zanne d'elefante. Ridiscendere vorrei la tua corrente per ritrovare la radura dove nomadi cantano a un tocco flebile di luna. Diario. A Istanbul, davanti alla moschea blu, una giovane di pelle bruna faceva abluzioni per purificarsi davanti all'Altissimo, Allah, il Misericordioso. Ad Ankara, caldo afoso, mi comprai un paio di sandali per camminare leggero e la sera all'hotel Hilton, piscina coperta, sauna, massaggio da un giovane etiope dalle mani pesanti. A Konya, nel santuario, una donna furtivamente sollevava il chador per guardare dietro il vetro il venerato baffo di Maometto. A Goreme, il piccolo ufficio postale sulla collina, di notte, dove ci offrirono in tintinnanti tazze del tè alla menta. Telefonai a casa. Mi aveva preso pungente nostalgia. Passo Mangen. Da ragazzo salivo a Passo Mangen per vedere la vallata stendersi ai miei piedi, dove, esile e candido, un rivolo sobbalzava tra i sassi. A Passo Mangen non c'era anima viva, solo qualche capriolo s'aggirava nella radura, qualche fagiano dorato svolazzava da un albero all'altro. Così riempivo il cuore di quel silenzio e stavo in ascolto fino a quando dalla rupe cadeva la sera. M'affrettavo allora a rientrare nella capanna che odorava di vino e i boscaioli erano già seduti attorno al fuoco. Benacus. Nel sordo cadenzato colpo dei remi, solcavamo le onde della vellutata distesa, nella quiete turchina della sera, fra cielo e acque sospesi. Più giù, tra limone e malcesine, sopra le sagome scure dei monti, l'ultimo rosato bagliore. Quanta pace scendeva nel cuore. Liveccio accende i profumi nell'umida sera, sfiora le pallide eriche sul roccioso pendio, poi vola verso la campagna, reca magiche saghe di fate e di gnomi, apprese sul monte e nel bosco, per i visi stupefatti, per gli occhi incantati dei bimbi. due giovani. Passano sotto le finestre, nel rosato bagliore della sera, due giovani alti e snelli. Cantano. Poi, in un empito d'affetto, si baciano. Dalle imposte socchiuse, delle persone guardano e si indignano. Chi sono quei due che osano pubblicamente amarsi? Come lampi, déjà vu. Cerco qualcosa che ho vissuto e vorrei fermare, ma il passato appare a tratti e poi scompare. Momenti già vissuti, paesaggi già visti e contemplati. Come il mistico non si cura di provare Dio che vive, così son io con le remote vite, fugaci come lampi nelle notti estive. Chi sono? Chi sono? Quanti io ho vissuto dalla gioiosa infanzia alla rassegnata vecchiezza? In quale età posso riconoscermi? Non nell'inquieta giovinezza al suo culto del corpo, né all'età di mezzo così greve e legata all'azione da divenire estranei a se stessi. Nella ruota svariata dei ruoli, guardando a ritroso, non so spiegarmi chi sono. Appartengo a tutte le patrie, forse a nessuna. Fontana. Scroscia l'acqua incessante e il marmoreo giovinetto ignudo ne ascolta il suono, ma un giorno, ridestatosi, balzerà vivo e correrà di là verso la compagna che par dorma, per abbracciarla e darle sulla bocca il bacio della vita. Così la forma diverrà reale e viva. Settembre. Nelle fresche mattine, ai tavoli esterni di un bar, di ritorno da un'esaltante partita di tennis, si beveva una coca e l'ultimo sorso di sole di un pallido settembre giunto alla fine. Allora tutto splendeva di gioiosa spensieratezza e gli amici facili al riso e al fraterno abbraccio. Adolescenza. Quando la giovinetta al mattino dinanzi allo specchio si ammira e uscita dalla stanza si porge allo sguardo di giovani amanti, nasce per lei la stagione dell'amore, mattino di dorate speranze, di trepide attese. Già aleggia sul suo volto la grazia, negli occhi la dolcezza, e i fulvi capelli sulle spalle nude accendono il mistero della nascente femminilità. Io ho dimenticato di farlo prima, ringraziamo ora naturalmente il lettore, attore Patrizio Zindaco. Vedete, quando diciamo la poesia viene letta, diciamo, dall'attore, dal lettore, acquista, quando, come nel caso di Patrizio, l'interprete è all'altezza, acquista tutto un rilievo che non ha se, diciamo, la poesia la leggo io o se evidentemente la legge comunque chi analizza le poesie, chi cerca di così spiegarle o di interpretarle, perché il tipo di lettura è fatalmente più attenta ad altro, no? Quindi analizzando, dovendo analizzare, si corre il rischio, diciamo, per usare anche qui una similitudine un po' abusata, si corre il rischio di vedere troppo gli alberi e di perdere di vista il bosco, come si dice, l'insieme, no? Quindi questo è un po' il rischio di chi legge così per spiegare, per interpretare, mentre diciamo la voce dell'autore in genere è appunto molto più coinvolgente. Se prescindiamo da alcune, se loro prendono registrazioni di poeti che leggono le proprie cose, con alcune eccezioni Artaud queste urla terribili, no? Cosiddette, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, no? Contro il concetto di follia, no? Però diciamo chi vive in una condizione particolare, diciamo, della dicevo, a parte, ecco, queste eccezioni come Artaud, no? Queste urla, diciamo, di chi vive in una condizione altra, o così queste interessanti, coinvolgenti letture di Ungaretti in italiano, però diciamo in genere il poeta è, credo che insomma, concordiamo abbastanza tutti quelli presenti che scrivono, è difficile leggere le proprie cose, o si ha un certo imbarazzo, pudore, non so, a leggerle, e allora ci si barrica. Io non sarei mai capace di leggere cose mie, no? Credo di averlo fatto una volta in modo orripilante, insomma, una cosa vomitevole, bisogna pur ammettere le proprie colpe, no? E insomma, meno quelle più palesi, più evidenti. Ecco, si diceva la capacità di attraversare momenti diversi, quali sono le sezioni diverse di questo libro. C'è addirittura in un poeta che è ancora giovane, ma diciamo non è più giovanissimo, come Silvano De Marchi, c'è una poesia sul footing. Sul footing. Si era concesso una pausa, il giovane studente, uscito di casa in tenuta da footing, per correre lungo il viale. Era l'ora che il sole tingeva di rosa i tetti e le case e una tenue brezza saliva dal lago. Qui naturalmente c'è l'evocazione classica, no? L'ora che il sole tinge di rosa, no? L'aurora, eccetera, no? Che è una reminiscenza, già in Omero si trova, poi varia dalle le traduzioni, l'aurora con dita di rosa, rosa che ha dita di rosa, eccetera, dipende da come si gira la frase, perché la costruzione in greco è diversa, però diciamo qui è contestualizzato, fatemi usare questa brutta espressione che comunque tutti noi usiamo, che deriva dalla tradizione semiologica, per un qualcosa di particolare che è il footing, no? Che è un, diciamo, voi sapete, la corsa in genere mattutina, non so chi di voi la pratica, io assolutamente no, anche perché vabbè, insomma, non importa. Ecco, altro nel mese di maggio, qui invece siamo ancora nel mese di maggio in cui tutto si infiora, si coprono gli alberi di tenere foglie, i prati di variopinte corolle e i giovani snelli e le dolci fanciulle s'accendono d'amore. Anche qui assonanze, consonanze, le assonanze quelle vocaliche, le consonanze quando è la, diciamo, è la consonante che, ecco, fanciulle s'accendono, no? Qui la, quella consonante un po' particolare, quasi sfuggente, che è la N, no? E per esempio anche il gitane, questa, non le gitane, non fumo, ma sono sigarette, no? Ecco, sì. Ma le gitane, voi sapete, gitani si può dire, gitan si dice, per gli zingari, ma gli zingari in senso più nobile, prima, diciamo, quando ancora festeggiavano i loro glory days, no? I loro giorni di gloria. Ora sono degenerati, e, scusate l'espressione, ma sono diciamo decaduti a voleur, così, da strapazzo, no? Rubano le scarselle, portamonete, eccetera, no? Invece qui ancora tra scialli e gonne rigonfie al ritmo del flamenco, quindi la tradizione gitana che è soprattutto andalusa, sempre più rapidamente battono i tacchi le donne gitane, il braccio alzato agitando il ventaglio. Quindi qui è una situazione artistica, teatrale, no? o di danza, di teatro danza, quello che vogliamo dire. C'è poi una sezione, qui ci avviciniamo per così dire al clou, ma il clou in realtà è in tutto il libro, perché non c'è un vero clou, non c'è neanche diciamo un progressivo innalzamento qualitativo, perché tutto il libro, dicevo, è di estrema importanza. Se si ha il tempo, veramente questo è un consiglio, lasciate decantare la vostra lettura personale della poesia. La poesia non è un... c'è una, anche qui una famosa similitudine, no? Sul bicchiere d'acqua, ecco, non è come bere un bicchiere d'acqua. Quando si legge poesia, si legge, intendo, si ascolta, voi avete la fortuna di sentirla esprimere bene, ma anche nella vostra lettura personale, veramente cerchiamo di far decantare la poesia. Io è un qualcosa che dico anche a me stesso, no? Noi siamo spesso colti o dalla fretta o invece dalla volontà di interpretare direttamente, ecco, no? La poesia richiede un tempo di lettura che è diverso da quello della prosa. Chiaro che se ci troviamo di fronte alla prosa poetica, vorrei citare i racconti di Silvano De Marchi, ecco, anche lì c'è un notevole impegno e ci troviamo spesso di fronte a prosa poetica. Però nella prosa c'è comunque il procedere della narrazione, l'incedere, se volete, della narrazione, che ci può anche diciamo spingere a una lettura che sia un pochino più veloce, dipende naturalmente dal testo, ripeto. Però è chiaro che Proust non è, ecco, parlavamo prima di Agatha Christie, no? Agatha Christie è un qualcosa che scorre via e magari non, lo dice un non lettore, ripeto. Per il giallo, confesso la verità, mi sono fermato a Arthur Conan Doyle, perché ritengo che sia più interessante l'inizio, insomma, no? Poi il resto, se uno ha tempo e voglia, ma così, insomma, lascia sempre, ho l'impressione, un po' di qualcosa che non soddisfa, diciamo. E sì, poi piace, per carità, io, ma diciamo, per la poesia, ecco, cerchiamo veramente di tenerne conto, perché tutte quelle osservazioni che venivo facendo, per esempio a livello metrico, che appunto rime ci siano, in questo caso ci sono rime interne, ci sono assonanze, ci sono consonanze, c'è l'iterazione, c'è l'allitterazione in qualche caso, però diciamo domina il verso libero, però dicevo appunto la struttura metrica di tipo quantitativo sillabico c'è, estremamente presente, e qui veramente dovremmo cercare di farne tesoro noi leggendo, no? Noi leggenti e noi leggendo. Ecco, timeo deum transeuntem, qui quindi temo il Dio che passa, in anestesia tre volte ho dormito il sonno senza sogni, assente ogni percezione di gioia e di dolore. Sarà così anche quando il sonno sarà perpetuo e l'anima lascerà il corpo inerte, o è pia illusione nel desiderio di continuare a vivere. Ho scampato l'ora in cui Dio ti passa accanto per una fermata all'ultimo momento e compare in una campare. E campare in una zona di confine, scusa, di lenta estenuante attesa. Ecco, qui direi che veramente in questa sezione, che con grandissima finezza, con grandissima sensibilità, si chiama L'altra dimensione, ci avviciniamo al clou. Io dicevo clou per così, per comodità, non è che ci sia un meglio o un peggio, però diciamo c'è un innalzamento dal punto di vista non del contenuto, ripeto, ma dell'ispirazione tematica. Leggo questa perché sono in particolare sintonia. Quando la scintilla divina che è in noi si unisce all'essenza universale, persa in quell'oceano, ha toccato la gioia suprema. Qui naturalmente condividiamo l'interpretazione che soprattutto per l'attuale papato è considerata eretica, quella gnostica. Io sono gnostico, non ho assolutamente paura a dirlo, perché mi bruceranno, se sono capaci di rifare l'Inquisizione, mi bruceranno. E so che questo è anche condiviso da Silvano. Quindi la scintilla divina che è in noi si diciamo tocca l'essenza universale, che è gnosticamente la dimensione dello spirito. Non voglio indurvi a diventare gnostici, per carità, ma diciamo così, per farsi un'idea. C'è in queste sezioni, sia nell'altra dimensione, sia nella sezione da cui, in cui ho sforato, cioè l'amato è Gesù. È Gesù inteso però come ho Christos, come appunto il purificato, quindi l'essenza spirituale. Ecco, c'è qui la tematica che è classica del quaesivi et non in veni, del ho cercato, non ho trovato. In realtà, ecco, io direi che al di là delle interpretazioni canonicamente imposte da una certa tradizione, Silvano ha anche trovato. Qui naturalmente potremmo dire che non troviamo probabilmente usque ad finem, no? Fino alla fine è impossibile trovare, però quantomeno ecco, ci possiamo forse avvicinare a una dimensione per cui possiamo in qualche modo dire di esserci avvicinati appunto a una ricerca che venga a approdare in qualcosa di più, concreto, no? E di più concreto, ben inteso, non nel senso del palpabile, del sensibile, ma concreto nel senso nobile del termine, che vuol dire concresciuto, no? Ciò che cresce insieme. E qui io direi che veramente, ecco, se vi prendete il tempo, ma oggi sicuramente con quello che sentirete ancora, nel senso delle letture dell'amico Patrizio Zindaco, ma anche da parte di Silvano stesso, quello che si sentirà di dire, ecco, io ritengo che voi abbiate già fatto un passo avanti importante, ma ecco, cercate veramente, al di là delle cose che ho detto, perché poi molte altre se ne potrebbero dire, potrei parlarvi ancora per tre ore, non lo faccio, anche perché la voce scema naturalmente dopo un certo tempo e il tono di voce già è scarso, e nonostante il microfono, mi scuso, dicevo, però ecco, prendetevi il tempo di naturalmente prendervi il volume compatibilmente insomma con la disponibilità di copie eccetera, o di leggervelo in biblioteca, però ecco, poi una lettura di quel tipo che suggerivo, se possibile, è un qualcosa veramente che sa da fare, che bisogna fare. Sfrecciò portato dal vento, il giovane atleta correndo, nude le braccia e le cosce, il volto alzato come per avvistare un lontano traguardo, lasciando una traccia di indomita giovinezza non ancora abbastanza vissuta. Corremmo tutta l'estate, saltando giù nella scarpata, aperte ai fianchi le braccia, pareva il vento sostenere il nostro volo. A sera ci accoglieva la stanchezza dell'erba. Dietro, compatto, trepidante, il bosco attendeva la salita della luna. Allora un brivido ci faceva cercare le nostre case. Perduta è la fanciullezza, e non possiamo staccarcene se non con un grido. Subacqueo. Ti sei smaltato di cobalto. Sommerso, con le mani hai filtrato il fosforo dei flutti, toccato i ruvidi topazi, e in silenzio ascoltato il canto delle conchiglie segreto. Poi, come un'alga, il mare ti ha rifluito alle stalattiti che lasciano cadere gocce di diamante. E in quegli antri, smarrito il pensiero, eri nel mistero, dove natura e divino si convogliano. Un tempo, quando di notte mi svegliavo, e la luna fino al lembo del letto si stendeva, guardavo nella valle. Chiara, accanto al mero si ergeva la tua casa. Così, di te sognando, nuovamente mi assopivo. I ricordi, queste estreme, ambigue consolazioni, li tengo e li ravvivo come il giardiniere i fiori della sua serra. Senectus, già con le sue fredde dita mi ha ghermito l'inevitabile vecchiezza. Curvo, barcollante, appoggiato al bastone, vi è chi mi aiuta ad attraversare la strada. Mi rattrista il pensiero di quando, giovane, correvo lungo i viali. Come l'eschimese, salutati i suoi cari, ritirarmi vorrei nell'oscura foresta. Tornato alla natura, ai piedi di una quercia maestosa, dolcemente assopirmi. Reminiscenza. In una rigida giornata d'autunno, dove il vento sollevava dai viali le foglie, su una bancarella appartata di Odessa, tra i libri impolverati, trovai un vecchio atlante di rotte marine, ed esse, da un'ancestrale memoria, a me stranito fluivano, ricordandomi quando, giovane mozzo, quelle rotte un tempo remoto avevo percorso. Come un lampo nella notte apparve, e poi svanì il passato. Congedo. E tu, pellegrino lettore, se mai dovessi incontrare il mio nome, sappi che nacqui in un'epoca sbagliata, nostalgico dell'ordine e della mite armonia, ugualmente attratto da due patrie che mi fecero sentire straniero, che mi appartai dal mondo di cui ho molto conosciuto per ignorarlo e obbliarmi nell'incanto dell'innocenza e della natura, degli affetti familiari, che non conobbi se non in rari momenti Dio, ma lo cercai. Mi sfiorò passando e dietro di sé lasciando una scia di intenso profumo come di sandalo e gelsomino. Seguì i suoi passi con occhi ancora assonnati fino a quando scomparve nel chiarore dell'alba. Ora mi chiedo perché non si fermò per dar sollievo al mio spirito. Voleva forse una prova della paziente attesa? Calava la sera. Ai piedi di un secolare abete apparve. Nella tacita pace diffusa sull'erba che odorava di muschio, a lungo conversammo di cose che non sono di quaggiù. Io lo chiamavo maestro e signore. Poi scomparve nell'intrico silenzioso del bosco e in me rimase la dolcezza inestinguibile di quel sovrumano incontro. che è in noi si unisce all'essenza universale persa in quell'oceano, ha toccato la gioia suprema. Ho intravisto l'invisibile. Gli ho dato sembianze umane per incantare i miei occhi e toccare le corde del cuore. Lui solo sa donare estatici momenti di ineguagliabile gioia. Quando varcai la soglia e venni alla vita, imparando un po' alla volta a riconoscere i volti dei miei familiari, capii che ero ospite di quella famiglia, sviscerataamente amato, ma ospite, che un'altra vita, in altro luogo avevo vissuto. La memoria non mi aiutava, se non confusamente a ricordare, ma accanto, sempre, avevo l'essere invisibile che m'assisteva e che io amavo. Ripercorrimmo i suoi passi nella verde Galilea, appena increspate le onde del lago di Tiberiade. Gettammo le reti, non le ritirammo cariche di pesci, ma ci sembrò venirci incontro, a filo delle acque, vestito di luce, le mani tese all'abbraccio. Semplicemente, riallacciandomi a quest'ultima poesia, direi che è straordinaria appunto questa rievocazione, non per leggere tutto nella chiave che dicevo, quindi nella diciamo versione esoterica e gnostica del cristianesimo, però senz'altro, ecco, ci sembrò, no, che venisse. Evidentemente questa è il cosiddetto docetismo, no, dal dokein, per cui sembra, no, diciamo, la materializzazione è sempre un qualcosa di proiettivo, di immaginario, non di reale, anche perché sul concetto di realtà, insomma, inutile che io qui mi profonda e ulteriormente, loro sanno che il concetto di realtà è abimo, estremamente complesso, estremamente discutibile. Ecco, io ringrazio tutti loro per la pazienza, ringrazio naturalmente Patrizio Zindaco per l'apporto fondamentale, ho già detto. Ringraziamo ancora Franco Latino però ecco, io lascerei la parola all'amico autore. Grazie, sarò breve. Ringrazio naturalmente l'amico Eugen per la sua critica sempre obiettiva ed acuta che sa immedesimarsi. Immedesimarsi nell'altro. E ringrazio il presente che hanno avuto la gentilezza di intervenire e di ascoltare. Io compio 50 anni di attività letteraria, avendo superato gli 80, e ho fatto in questo periodo qualche centinaio di recensioni da poeti giovani e meno giovani. Perché quando uno vuole esprimere la propria interiorità, anche se in termini non del tutto riusciti, è giusto che abbia un'attenzione e un riconoscimento. Dopo la guerra, quando frequentavo il liceo, eravamo incantati dalla poesia dei lirici nuovi, come la chiamò Franceschi. la triade, in particolare Ungaretti, Pontale e Quasimodo, poesia che noi leggevamo al di fuori nelle aule scolastiche, perché si arrivava al massimo all'annunzio con uno sguardo rapido al crepuscolarismo. E ci trovavamo di fronte ad una poesia che si richiamava a quella dei lirici greci, di una lirica pura ancora non contaminata dalla retorica. E dopo tanta retorica, D'Annunzio, oratoria, Carducci, deziosità anche in certa produzione del Pascoli e comunque del crepuscolarismo, si incontrava una poesia nuova, una poesia vigorosa, in cui la parola aveva preso il suo significato ed era ricca di risonanze interiori. E questo Ungaretti soprattutto ci entusiasmava. Quando trovo una parola in questo silenzio, scandita è nella mia vita come un abisso. Poi Ungaretti ebbe un incarico di professore di italiano all'Università di San Paolo e il figlio undicenne, Antonietto, morì. Ed egli lo ricorda in una celebre, bellissima poesia, Tutti spezzasti, ricordando anzitutto una passeggiata domenicale. E sentiamo la musica di questi versi. Alzavi le braccia come ali e ridavi nascita al vento, correndo nel peso dell'aria immota. Nessuno mai vide posare il tuo lieve piede di danza. E poi questi versi martellati. Grazia felice, non avresti potuto non spezzarti in una cecità tanto ingiurita. Tu semplice soffio e cristallo, troppo umano lampo, perlempio, selvoso, accanito, ronzante, ruggito d'un sole nudo. Questa musica del verso la troviamo solo in alcuni passi migliori della Divina Commedia, nel Petrarca, in Leopardi e occasionalmente in altri, ma soprattutto in questi che sono lirici puri, Dante solo in alcune parti naturalmente. E poi l'incontro fu con Montale, no? Dal verso pietroso, il verso lungo, questa descrizione così arida del paesaggio della Liguria, che anche è gonfia di acque e di vegetali, ma lui descrisse soprattutto il paesaggio brullo, che esprimeva il suo stato d'animo scettico. Oh, santo Dio. Spesso il microfono fa caprice. Spesso il male di vivere era il rivo strozzato per gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia rialza, era il cavallo strapazzato. E ossi di seppia. Poi divenne sempre più difficile la poesia di Montale con le raccolte successive, ma anche di significati, per decadere nell'ultima parte. E Quasimodo, il terzo poeta, che ha avuto due fasi. Uno, l'esaltazione della sua Sicilia, la Trinacria, vista in un'ottica di mito greco, e l'altra poi la svolta per una poesia sociale che richiamava le tragiche vicende dell'ultima guerra. Quindi l'esaltazione della sua terra, la terra impareggiabile, tindare mite ti so fra larghi colli pensili sulle acque delle isole dolci del Dio, oggi massali e ti chini in cuore. Ma Quasimodo fu importante anche per la sua traduzione dei lirici greci, che fu veramente geniale e anche rispettosa della lettera, no? O coronata di viole, divina, dolce, ridente, Saffo, così la chiamava al cielo. È naturale che da questa fase dell'ermetismo italiano si doveva per forza sapere e conoscere la fase precedente rappresentata dal simbolismo francese, che trova grandi echi nella poesia italiana. Quindi il visionario Rimbaud, il ragazzo di Charleville, le suole di vento, Verlaine, la musique avant toutes les choses, la musica in primo luogo, Baudelaire con le fleur du mal, E poi, così attaccato alla vita, alle sue dissolutezze, si sentì escluso dove risplendi Parigi, Mallarmé con le Prémeries d'Enfant musicata. E queste furono le nostre conoscenze, non soltanto mie, di quanti si dedicavano alla poesia in quell'epoca, perché trovavamo una poesia nuova dopo tanta retorica, finalmente una poesia che esprimeva i moti più reconditi dell'anima con un vigore primitivo che non si trovava in altri poeti. E da lì il passaggio a poesia tedesca. Allora andava di moda Rilke, andò di moda fino a quando non sorse un altro astro, Bertolt Brecht, con la sua poesia di protesta sociale, meno lirica indubbiamente. E questa poesia, il poeta europeo, ovvero mistico Rilke, ci incantava a quell'epoca, perché univa la plasticità delle figure, no? Stato a Via de Rodin, e la musicalità del verso, no? E quando in me stesso mi piego, il mio Dio oscuro, come un viluppo di 100 radici che silenziosamente assorbono, altro non so, già che tutti i miei rami riposano e solo il vento oscillano. Ci incantava questa poesia come quella di Heine, amico dell'Italia, così musicale. No, avevo una patria bella, mi baciò in tedesco, mi sussurrò in tedesco, a stento si crede come dolce sia la parola Ich liebe dich, es war ein Traum. Ecco, questa conoscenza della poesia europea, senza citare poi gli autori russi, che pure erano di grande importanza. Questo fu il nostro itinerario, mio e di tanti altri, vissuto sulle ali della poesia. Ma naturalmente di sola poesia non si vive. E quindi dopo 25 anni di presidenza che rappresentava l'antipoesia, direi l'assenza totale della poesia per le complicazioni burocratiche, perché si sa che chi comanda più che i politici sono i burocrati, che sembra si divertano a complicare le cose del cittadino, e le contestazioni e l'arroganza degli organi incompetenti e via di questo passo, me ne andai in pensione. Ricordo però, rimase vivo, degli anni di insegnamento, perché allora era diversa la scuola da oggi, non so esattamente come sia, ma comunque c'era il rispetto dell'autorità, c'era il senso delle regole, e allora nasceva un rapporto affettivo tra l'insegnante e gli alunni, e l'insegnante era al di fuori delle lezioni il loro confidente. E so che il professor De Biasi, forse molti lo conoscono, pianse quando lasciò l'insegnamento, e pianse perché doveva lasciare i suoi alunni a cui si era affezionato e aveva creato un rapporto di vera collaborazione, perché l'importante era saper entusiasmare, saper interessare gli alunni alla propria materia, no? E tutto il resto veniva dopo, no? Ecco, questi anni direi felici. E consola il fatto che dopo 50 anni dall'esame di maturità ancora ricevo delle cartoline da questi ex alunni che hanno 70 anni. Questo insomma l'itinerario, no? E adesso quindi ho finito, non si sa cosa dire.